Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, riferendomi allo sviluppo delle nostre città, ha senso parlare di limite e di ricerca di vivibilità? Esiste un limite allo sviluppo urbano e industriale di un comune? Oppure è, ahimè, solo dovuto al buon senso degli amministratori? Abito a Milano e due volte al giorno percorro la tangenziale. La sensazione è quella di un unico agglomerato edilizio, case e capannoni, cementificazione sistematica e continuativa, senza il distacco tra un comune e l'altro, senza riposo. Ha mai provato a decollare dall'aeroporto di Linate o Bergamo? Apparentemente tutta la fascia pedemontana da Bergamo, la Brianza fino a Lecco sono unite in un'unica città. Qual è la percentuale di un terreno agricolo o libero riferita all'estensione di un comune che dovremo salvaguardare per la nostra salute o per chi verrà dopo? Considerando l'attuale periodo di crisi economica, mi rendo conto di essere controcorrente, ma non credo nell'edilizia come soluzione. Massimo. Caro Massimo, per indicare il territorio che va da Torino a Venezia, il sociologo Aldo Bonomi ha coniato il termine di città infinita. Ed è così. Come osserva lei, ormai i confini tra molti comuni sono scritti solo sulle carte geografiche o amministrative. La mobilità tra casa e lavoro è molto forte e lo sarebbe ancora di più se ci fossero strade e soprattutto trasporti pubblici più efficienti. Lei dice: poniamo un limite all'espansione edilizia. Non è da questo che possiamo trovare nuove risorse per la crescita economica. In parte, lei ha ragione, ma in questa prospettiva dovrebbero già operare i piani regolatori dei comuni e i piani territoriali delle regioni. Ma non bisogna dimenticare che l'edilizia ha ancora molti spazi per crescere in due direzioni. Da una parte, nella ristrutturazione delle aree urbane e dall'altra, nella realizzazione delle infrastrutture di cui soprattutto il Nord Italia è ancora fortemente carente. Quindi sono certamente necessarie politiche di pianificazione dello sviluppo territoriale, ma è altrettanto necessario sollecitare investimenti e scelte in grado di far crescere l'economia, rispondere alle esigenze dei cittadini e quindi migliorare anche la qualità della vita. A seguito delle ultime manovre proposte dall'onorevole Bondi, sono costretto a rimettere il mio abbonamento ai diversi servizi podcast perché troppo costosi. Quindi sospendo immediatamente l'iscrizione a qualsiasi servizio che possa in qualsiasi modo occupare le mie memorie di massa locali e trasferisco di conseguenza tutti i miei averi digitali su qualche server remoto localizzato in nordiche regioni, dove il costo di noleggio è molto più economico. Con questa trasmigrazione digitale potrò preservare le mie attività senza dovermi preoccupare di eventuali tasse italiote. Non mi stupirei però se un giorno mi venisse chiesto di far rientrare i miei dati nei server italiani con una manovra che potrebbe essere chiamata scudo digitale. Per nostra fortuna, e forse senza che l'onorevole Bondi lo sappia, oggi i dati digitali sono senza confini e imporre una tassa locale sui dati virtuali è paragonabile a dare una nazionalità alle nuvole che passano i confini di due stati. Emiliano. Sono d'accordo con Brunetta e Padoaschioppa sui bamboccioni, in quanto se uno se ne vuole andare di casa, ci va e basta. Il lavoro incerto, mal pagato, i costi, eccetera, sono solo una scusa, in quanto se uno cerca sempre principalmente di divertirsi, con cene, vacanze, weekend, happy hour, eccetera, non avrà mai i soldi per pagarsi un affitto, un mutuo o la spesa alimentare. Manca lo spirito di sacrificio. Sono le generazioni dell'happy hour che vanno dai 20 ai 50 anni. Ho 42 anni e anch'io mi metto nella lista dei bamboccioni, in quanto fino a qualche mese fa vivevo in casa con i miei. Ma non è andata esattamente così. A 21-22 anni ero già economicamente autonomo e intraprendente. Studiavo e lavoravo e me ne volevo andare a vivere per conto mio. Cosa alla quale ho rinunciato per insistenza e paura di mia madre, che mi chiedeva di non farlo. A 31 anni sono uscito di casa e sono andato a convivere con una mia fidanzata. Sono seguite scene patetiche di mia madre, che spesso mi faceva trovare sulla porta il ragù, gli spezzatini e altro. Ma guarda caso, dopo qualche mese, essendo praticamente scappate di casa, mia madre e mia sorella me le sono ritrovate in casa mia. Inutile dire che a sua volta è scappata la mia fidanzata, e chi l'ha più vista poi? Sapete com'è andata a finire? Che dopo altri 3 anni, essendosi ammalato mio padre, c'è venuto pure lui e il quadro familiare si è ricomposto. Ora ho comprato casa in un altro paese, vivo con un'altra donna e non vi dico i timori di quest'ultima essendo a conoscenza di tutta la vicenda. Noto che in tutte le famiglie che conosco c'è un rapporto morboso dei genitori con i figli e questi si comportano di conseguenza e sinceramente mi prende lo sconforto per loro. Pertanto concludo dicendo che se avrò dei figli, farò in modo che a 22-23 anni al massimo se ne vadano di casa. Se dovrò aiutarli, lo farò, ma fuori casa. Questo vuol dire aiutare veramente i figli, non tenendoli sempre a casa, ovvero, se non trovano l'anima gemella, c'è sempre la rete di salvataggio. Perché facendo così va a finire che i genitori diventano morbosi nei confronti dei figli, creando loro un doppio danno. Si attaccano morbosamente ai genitori e se da una parte questo non li aiuta a crescere e a responsabilizzarsi, dall'altra non hanno la forza per andarsene. Luca. Ma come si fa a far funzionare un'economia quando si è depenalizzato il falso in bilancio e incoraggiata la prescrizione dall'alto? L'Italia è diventata doppiamente inaffidabile. Fare leggi pro imbrogli aiuta solo i furbi e i disonesti. E tutti sono più poveri, compresi loro, perché quando i soldi finiscono non c'è imbroglio che tenga. Cesare. Sono d'accordo con l'onorevole Bondi. Come valutare altrimenti il comportamento del PD, che nella scorsa legislatura ha presentato una proposta di legge che aveva come prima firmataria la Finocchiaro, che era molto ma molto più dirompente di quella votata mercoledì al Senato dal PDL. Peccato che poi questa proposta il PD se la sia rimangiata quando si sono accorti che la legge avrebbe potuto favorire Berlusconi. Del resto è norma nel diritto penale applicare al reo o all'indagato da subito le norme di maggior favore. Fabio. Quando il Presidente del Consiglio asserisce che sono ancora troppo lunghi i termini di durata del cosiddetto processo breve, ebbene non fa altro che adottare una strategia comunicativa ben nota, la presupposizione. Se dico attualmente la Francia ha un re, lo faccio scopertamente, chiunque può facilmente sbugiardarmi. Se invece dico l'attuale re di Francia è calvo, continuo a sostenere che la Francia sia una monarchia, ma sposto l'attenzione su un presunto attributo del suo re, del quale non si mette più in dubbio l'esistenza. In concreto, a Berlusconi interessa far passare presso l'opinione pubblica la giustezza del processo breve come principio, distraendo l'uditorio dall'essenza della questione, pungolandolo a considerazioni affatto marginali. Flavio, Bologna. Più che chiedersi se sia giusto o no che Berlusconi attacchi i magistrati, bisognerebbe chiedersi se è normale che il cittadino Berlusconi, in 16 anni, abbia subito circa 2.000 udienze in tribunali vari, senza considerare le perquisizioni subite e le rogatorie internazionali, il numero maggiore di tutte le rogatorie fatte complessivamente in tutti i processi di mafia, e che tutto coincida con la sua discesa in politica. Vi viene un piccolissimo dubbio che ci sia una particolare attenzione nei suoi confronti? Giovanni. Scrivo a proposito del sistema di incentivi per l'acquisto di auto. Ora mi chiedo, retoricamente, se esistono questi soldi per fare finta che la Fiat vende auto in Italia, perché non si usano invece per operare un taglio delle tasse e una necessaria riforma fiscale? Che cosa assurda questo modo di governare senza una visione, senza un progetto. In assenza di un'opposizione politica, nonostante la mia stima per Bersani, è possibile che non ci sia niente da fare per interrompere questo andazzo. Ve lo dice uno che dal 2008 ha trasferito con successo la sua piccola azienda all'estero e che tra un po' trasferirà anche la famiglia. Marcello, Napoli. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.